2024 di Enrico Pagliarini. Questa è una puntata speciale di 2024 in diretta dal Salone del Libro di Torino. Allora vi faccio sentire subito i protagonisti della giornata, cioè il nostro pubblico. Facciamo un bel applauso, fatevi sentire. Ecco, questo è il nostro pubblico in diretta dal Salone del Libro di Torino. Io mi metto seduto. Abbiamo appena fatto un tweet su dall'account di Radio 24 in cui 2024 viene definita 2040, quindi ci hanno allungato un po' la vita. Allora oggi parleremo di libri digitali. Ne parliamo dal seriamente a 2024, dal 2007, da quando è stato lanciato il Kindle. E devo dire che molte cose sono accadute, però come la settimana scorsa abbiamo detto, l'innovazione è un po' come i popcorn, si scaldano e poi esplodono. Allora forse in questi mesi stanno esplodendo molte cose. Vi presento la nostra prima ospite, Cristina Mussinelli, che è la responsabile per l'editoria digitale dell'AIE, che è l'Associazione Italiana degli Editori. Bentornata, buongiorno. Buongiorno. Possiamo dire che stanno esplodendo molte cose, stanno capitando molte cose in questi anni. C'è addirittura chi ha detto o ci muoviamo gli editori in questo anno oppure perdiamo il treno. No, sicuramente si sono mosse molte cose. Il mercato rispetto all'anno scorso è cresciuto, si parla adesso di circa l'1%, anche se bisogna dire che si tratta di stime, perché i dati sono quelli raccolti sulla base delle informazioni di alcuni operatori, perché altri operatori, per esempio Amazon, non forniscono dei dati ufficiali, quindi sono ragionamenti fatti sulle stime possibili. L'altra cosa che credo che sia importante, gli editori hanno creato un catalogo sicuramente molto più ampio rispetto a quello dell'anno scorso, perché si parla a fine dicembre 2011 di 30.000 titoli, e molti editori ormai pubblicano la versione digitale in contemporanea con la versione cartacea delle novità. Quindi l'allineamento anche dei cataloghi è sicuramente molto maggiore rispetto a prima, e molti editori stanno anche lavorando sulla digitalizzazione dei cataloghi esistenti, e quindi il numero di titoli è sicuramente destinato a ampliarsi. Questo significa che fino a qualche anno fa questo mercato era veramente insignificante, oggi seppur ancora piccolo, perché appunto l'1% del mercato totale dell'editoria è molto piccolo, giusto per capire, l'1% in Italia, sì. In paesi più avanzati a quanto siamo già allora, arrivati? Se si prendono gli Stati Uniti, dove però il fenomeno è partito con almeno 3 anni di anticipo, si è adesso sul 18%, sempre parlando di mercato narrativa e saggistica, perché il mercato universitario professionale è un mercato completamente diverso, con altri numeri e con altre regole. Potremmo dire che è più digitalizzato. È sicuramente sì. Molto più digitalizzato. Sì. E se si parla invece per esempio di Inghilterra, si parla del 6-8%. Gli altri paesi europei di lingue, diciamo, nazionali come la Francia e la Germania sono abbastanza allineate. Francia, Germania e Spagna più o meno sono allineate come l'Italia. A proposito di cose che stanno accadendo, vi presento Chiara De Servi, che è responsabile per la parte libri su Google Play. Benvenuta 2024, buongiorno. Buongiorno. Dicevo, stanno succedendo cose. Voi questa settimana avete annunciato una novità che riguarda i libri digitali, perché questo è importante sottolinearlo. Noi non stiamo parlando del commercio elettronico dei libri di carta, stiamo parlando proprio di libri digitali, quindi di file che si possono leggere sugli i reader, quindi i lettori di libri digitali, gli ebook reader, oppure i tablet, oppure il computer, oppure il telefonino, lo smartphone, eccetera eccetera. Che cos'è Google Play? Google Play è la piattaforma digitale di Google in cui gli utenti italiani da questa settimana hanno l'opportunità di comprare dei libri in formato digitale. Hanno a disposizione migliaia di titoli, tutti i maggiori editori italiani, e più di 2 milioni di titoli sia a pagamento sia gratis di libri di pubblico dominio. Google Play in generale è la piattaforma di intrattenimento di Google basata sul cloud computing, in cui si trovano tutti i contenuti premium che possono accedere gli utenti. In Italia sono disponibili le applicazioni per il mondo Android e i libri. E tra poco la musica, potremmo dire. In altri paesi come gli Stati tu Uniti. Tu non lo puoi dire, però possiamo dire che diciamo la tendenza è quella di mettere musica, film, esatto. Eccetera, eccetera. In Google Play sono confluiti quello che prima si chiamava l'Android Market, quindi la naturale evoluzione dell'Android Market, Google Music e il Google eBook Store. Dunque ricordo che oltre che per il pubblico che è qui presente al Salone del Libro, che può fare domande alzando la mano, oppure tra poco magari vi faremo noi delle domande, abbiamo microfoni che possono girare, come sempre, come tutte le settimane, 2024 è aperta agli ascoltatori, quindi potete chiamare il nostro numero verde per le vostre domande sul mondo digitale dei libri che si stanno sempre più digitalizzando, quindi gli ebook, sia i reader, quindi sia i terminali sui quali si possono leggere i libri, sia il mercato dei libri vero e proprio. Dicevo, numero verde 800240024, gli sms, Facebook, Twitter, potete utilizzare anche le altre cose oppure la posta elettronica 2024@radio24.it. Chiara, vorrei chiederti subito un particolare sull'offerta che voi avete. Questi libri dove possono essere letti? Perché tu ci hai detto che in passato si chiamava Android Market, quindi uno potrebbe pensare devo avere una piattaforma Android. Non necessariamente, in realtà è possibile leggere su qualsiasi strumento, essendo basato sul cloud computing basta avere un account Google, quindi non è necessario comprare uno strumento dedicato, basta avere un computer di qualsiasi tipo con un browser, uno smartphone Android, un tablet Android, a brevissimo arriverà l'applicazione anche per il mondo iOS, quindi Apple. Essendo in cloud computing tutti i libri sono sincronizzati tra loro, posso iniziare a leggere dallo smartphone, poi apro il mio tablet, il libro riprende esattamente dove avevo concluso, apro il computer e riprende in quella posizione. Posso comprare anche libri stranieri su altre piattaforme o posso comprare solo sulla piattaforma italiana? Dalla piattaforma italiana posso comprare titoli anche di altre lingue, dall'Italia quell'IP italiano vedrò sempre lo store italiano dove ci sono però contenuti di altre lingue. Marco Ferrario, un altro dei nostri ospiti, oggi abbiamo ospiti tutti dal vivo, tutti in diretta dal Salone del Libro. Dicevo, Marco Ferrario è fondatore di Book Republic, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voi siete una libreria, giusto? Noi siamo un sistema che si colloca tra chi è proprietario, chi genera i contenuti in formato digitale, ma anche in formato cartaceo, noi li trasformiamo in digitale, e il lettore, per cui tutto ciò che serve in mezzo in termini di delivery di contenuti, social reading, creazione e generazione di informazioni che consentono ai lettori di trovare i libri in maniera più facile, più immediata possibile. Però diciamo, per il consumatore finale, se io voglio acquistare un libro e poi leggerlo sul mio lettore di libri digitali, sul mio ebook reader, siete come Google Play, come Amazon? Esattamente come Google Play. Abbiamo rilasciato oggi un'applicazione web che funziona esattamente con le logiche di Google, per cui è chi compra un libro da Book Republic, ma oppure che ha una libreria da un altro acquistata altrove, può collocarla su un proprio account registrandosi attraverso la web app di Book Republic e leggere, accedere a quei contenuti da qualunque device, non solo su Android, già su iOS e presto anche su Microsoft, soprattutto su Windows 8 quando verrà rilasciato alla fine dell'anno. Una cosa in più che questa applicazione consente è una sincronizzazione testo e audio che ci sembra forse la parte più innovativa del sistema di cui parlavo prima. Cioè, se io sono in metropolitana e sto leggendo un libro e arrivo al capolinea e devo smettere a un certo punto, salgo in macchina, il mio device, qualunque esso sia, collegato in Bluetooth con il sistema audio della mia automobile, della mia macchina, fa partire l'audio, chiaramente trasferendo su quella modalità il device, fa partire l'audio del libro esattamente dove io l'avevo interrotto nel momento in cui ero sceso dalla metropolitana. Per questa sincronizzazione audio-testo è qualcosa che ancora non abbiamo visto accadere in giro in maniera così diffusa. Poi sicuramente molti ascoltatori si domanderanno, visto che c'è di mezzo il Bluetooth, ma funzionerà? Però tu direi sicuramente di sì, bisogna poi provare questi strumenti. Per l'abbiamo provata giusto mezz'ora fa presentando e funzionava. Senti Marco, voi siete una libreria dove io posso comprare libri digitali, ma di fronte all'entrata sul mercato, perché abbiamo citato Google, molti conoscono Amazon, esiste Apple, Microsoft ha fatto un investimento importante negli Stati Uniti, quindi anche da quel fronte vediamo un certo interesse, ma una libreria italiana, un player, un protagonista italiano, come fa a distinguersi in questo mondo dove ci sono giganti che sono poi anche molto legati con i terminali? Perché questo è un elemento importante. Beh, appunto, questa domanda andrebbe rivolta a noi, ma forse in primo luogo a Mondadori, a Rizzoli, a Feltrinelli, cioè ai grandi gruppi che certamente sono toccati da questo cambiamento. Prima Cristina Mussinelli parlava della dimensione del mercato all'1%, in realtà è stato detto in altre circostanze che non è tanto la dimensione del mercato che è importante quanto l'entità della trasformazione in atto. Tutto sta cambiando, la struttura di questa industria è in una fase di profondo e radicale cambiamento, a prescindere dall'1 o dal 10% di incidenza del mercato, e questo oggi, non domani. L'ingresso di grandi player come Google, come Amazon, Apple, tra l'altro in un brevissimo tempo sul mercato italiano, perché in 7 mesi sono arrivati tutti, è un altro segnale. Cosa possiamo fare noi? E quali sono le nostre specificità per poter competere con loro? Noi siamo, non apparteniamo a nessun grande gruppo, siamo indipendenti, noi siamo snelli e veloci, come si dice, le start-up hanno questo grande vantaggio. Concretamente questo in che cosa si è tradotto? Che siamo partiti nel luglio del 2010, molto prima di altri grandi gruppi, che in 1 anno e mezzo abbiamo creato una customer base, perché una base clienti di svariate decine di migliaia di utenti che ci posizionano comunque in un mercato nascente piccolo tra i primi store italiani in termini di vendita. Abbiamo una relazione con gli editori, essendo su questo mercato nazionale da tantissimo tempo, che forse è molto più profonda e più radicata e più radicale. Io ho lavorato 16 anni in Mondadori, lo staff di Book Republic, per cui queste sono le caratteristiche che probabilmente ci differenziano principalmente rispetto agli altri. Grazie a Carmelo che ci ha aperto il microfono. Come sentite, siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino, quindi ogni tanto i nostri microfoni vengono chiusi giustamente per ridurre il rumore di fondo. Marco, però questo diciamo è anche un vantaggio che voi avete accumulato perché siete partiti prima, però voglio capire, per il consumatore finale, oggi che c'è Google, insomma ci sono tutti i grandi protagonisti, che cosa io ho in più da una libreria come la vostra rispetto a un altro player? Perché sai, quando io ho un tablet Android e magari trovo un'icona che mi guida direttamente su Google perché ho l'account su Google, eccetera eccetera, oppure se ho un iPad la stessa cosa accade per Apple, chiaramente il fascino di queste piattaforme è molto forte. È vero, si sta andando verso un mondo dove l'accesso via web ai contenuti ridurrà questa forza dei grandi player. Questa è la ragione per cui noi abbiamo lanciato la nostra web app giusto oggi. Ma allora io posso dire che è un lavoro di relazione. Noi abbiamo una caratteristica come libreria: i nostri lettori, la gente che frequenta Book Republic acquista in maniera molto fedele ciò che noi proponiamo, per cui stabilire una relazione col lettore in termini di consiglio di lettura, in termini di proposte commerciali, in termini di racconto di libri. Noi abbiamo anche una community di lettori che si chiama Zazzi.it, che fa parte del nostro sistema di cui dicevo prima, che è integrata allo store, che è integrata alla web app, per cui un luogo dove poter discutere di libri oltre che comprarli. Ecco, questo insieme di attività, stabilire una relazione col lettore, è chiave ed è fondamentale. Noi siamo in Italia, siamo italiani, conosciamo l'editoria italiana probabilmente molto meglio sia di Amazon che di Apple e di Google, e di questo cerchiamo di fare una forza, facendo quello che chiaramente possiamo fare, perché stiamo parlando chiaramente di... Certo. Puntata speciale di 2024 in diretta dal Salone del Libro di Torino. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sistema podcast, che è una specie di sistema come quello che noi usiamo per comprare i libri. In quel caso non si compra perché il podcast è gratuito, ma si scarica un file audio della nostra trasmissione. Chiara De Servi di Google, ma che cosa mi date in più voi di Google se io compro un libro da voi? Poi ti chiedo anche qualcosa sui prezzi, che questo è un argomento importante, interessante. Io penso che il nostro plus sia sicuramente la selezione, perché siamo il più grande bookstore d'Italia con più di 2 milioni di titoli disponibili. Siete già il più grande, cioè siete appena partiti, sì. Siete già più grandi di Amazon. Più di 2 milioni di titoli. Però Ferrari non è d'accordo. No, titoli italiani sono 7.000 in realtà, per cui sono migliaia, non sono 7.000. Sicuramente il nostro plus è il fatto che l'utente, per acquistare e leggere libri su di noi, non è legato a comprare un particolare device, un particolare strumento dispositivo, ma è assolutamente libero di utilizzare, non deve fare un investimento, assolutamente libero di utilizzare qualsiasi strumento a sua disposizione. In più è una piattaforma che utilizza degli standard di mercato dal punto di vista dei file, quindi l'utente ha l'opportunità di gestire se su smartphone e su tablet dei libri senza dover utilizzare nessun tipo di DRM, non deve neanche sapere cosa sono i DRM. Cioè Ci stai dicendo che su Google Play nessun libro ha il DRM, non è bloccato con i diritti? Perché non si scarica nulla, non c'è nessun file da scaricare. Nel momento in cui io sono su tablet, web o smartphone, non devo scaricare un file, quindi non c'è quindi più se io vado fuori da internet, diciamo offline, non funziona, non leggo assolutamente niente. Invece sì, funziona anche offline grazie alla nostra tecnologia. Basta che io flaghi i libri che mi interessano a leggere offline e li posso leggere tranquillamente offline. C'è chi dice che non siete ancora pronti con questo, però... Invece sì, te lo posso far vedere qua. Ah, dopo lo vediamo. Cristina, c'è chi dice che gli editori, soprattutto italiani, locali, in questo mercato che si sta trasformando e dove arrivano dei player così importanti, scompariranno. Che cosa possono fare gli editori, visto che tu ti occupi di questo da 10 anni, diciamo? 20. Anche dai, ecco, da 20. No, io volevo accennare una cosa rispetto al discorso che facevi prima anche con Marco. Io credo che una delle cose che sta cambiando, proprio perché non è solo il prodotto editoriale o il tipo di formato su cui il libro viene venduto, ma è proprio un cambiamento anche degli strumenti di comunicazione e marketing, quello che distingue e che per gli editori diventa sempre più importante è anche il livello di servizio che viene fatto al cliente finale, perché stanno cambiando tantissimo anche le modalità di conoscenza del cliente dei libri, di recupero delle informazioni sui libri, il passaparola, le community, eccetera, sono un elemento fondamentale. E credo che questo sia una delle caratteristiche che differenziano una libreria dall'altra, come differenzia le librerie fisiche, anche quelle tradizionali, rispetto al livello di servizio, di conoscenza che possono dare ai loro lettori sul mercato e sui libri che vengono proposti. L'altra cosa invece è il ruolo dell'editore. Io credo che il ruolo dell'editore rimanga sempre importante, perché il ruolo dell'editore non è solo il ruolo della distribuzione, ma anche quello della creazione del catalogo, della selezione dei titoli, del lavoro con l'autore sul prodotto editoriale, sulla capacità di identificare determinate tendenze, determinate tipologie di prodotti. Quindi magari sarà un ruolo diverso, lo faranno altri editori, però sicuramente un ruolo editoriale credo che anche con le tecnologie rimarrà rilevante. Stanno nascendo anche nuove forme di prodotto editoriale, le long story oppure i short, cioè si sta cambiando anche e si stanno cominciando a vedere anche nuove sperimentazioni proprio di tipologie di prodotto anche nell'ambito del libro, come dire, solo scritto e non enhanced e non applicazioni. Sì. Questo dunque un ascoltatore ci scrive via SMS. Vi ricordo che potete scriverci un SMS al 349-238-6666 oppure potete inviarci una email, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina di 2024 o anche via Twitter. Ci scrive: il mercato non decollerà mai davvero fino a quando gli e-reader continueranno a costare troppo. E lui dice: Amazon riesce a fare prezzi accettabili per i reader, cioè i lettori di libri digitali, ed è per questo che vince. Chiara, voi vendete anche i terminali sui quali leggere? No, assolutamente. Perché no? Perché noi non facciamo ferro, non facciamo hardware, quindi rendiamo disponibili i contenuti premium agli utenti e lo facciamo in modo assolutamente aperto, in modo che sia multi-piattaforma e multi-device, in grado di qualsiasi strumento un utente ha. Okay. Senti, una domanda sui prezzi. Voi come Google potete agire sul prezzo oppure sono gli editori, gli autori che decidono il prezzo? Dipende dagli accordi che abbiamo fatto con gli editori. In generale gli utenti hanno a disposizione libri a tantissimi punti di prezzo diversi. Sullo store, per chi va sull'home page, trova libri anche a 99 centesimi, a 49 centesimi, fino ad arrivare a dei prezzi più alti per libri tecnologici, scientifici o professionali, ma tendenzialmente i libri rispetto alla carta costano sempre molto meno. Questo è evidente e molti dicono potrebbero costare ancora di meno, però questo è un dibattito. Marco Ferrario, vendete anche i terminali? E no. Non pensate che la vendita, diciamo, nello stesso ambiente anche del terminale favorisca l'acquisto su quella piattaforma? Certo, lo favorisce, ma questo è un gioco, un business che ormai è nelle mani di Amazon, di Apple e di Sony, di Kobo, di player internazionali, di pochi player internazionali che sono partiti tanto tempo fa, su cui noi assolutamente non possiamo neanche pensare, oltre a non pensiamo sì. di entrare. Sì. Senti, i prezzi c'è chi dice che potrebbero costare di meno. Voi potete come libreria italiana agire sul prezzo, quindi fare delle promozioni a prezzi più bassi, o gli editori guidano un po' il mercato? Allora, diciamo che noi siamo tra su questo abbiamo una posizione chiarissima. Noi difendiamo l'interesse degli editori nella determinazione del prezzo e vogliamo che siano gli editori ad avere questa prerogativa. Sono loro che devono definire il prezzo del loro prodotto. Quindi esiste un modello contrattuale che noi tendiamo a consigliare, a difendere per conto degli editori. Detto questo, siamo anche tra le librerie che sono, cioè, i nostri editori ci accusano tra virgolette di essere molto aggressivi nel prezzo. Siamo piccoli ma siamo anche cattivi, di conseguenza seguiamo molto spesso le richieste dei nostri clienti che chiedono libri a prezzo basso, e quindi in questo momento abbiamo tutti i sabati un libro a un prezzo particolarmente vantaggioso con l'80-85% di sconto. Abbiamo book pack, cioè più libri, collezioni più libri con sconti sul prezzo totale che sono, arrivano anche al 50%, per cui lavoriamo molto anche sulle promozioni in accordo con gli editori. Senti, esiste la possibilità di fare un abbonamento flat, quindi io pago 10 euro, 100 euro al mese e posso scaricare tutti i libri che voglio? No. Visto che esistono delle cose del genere per la musica? Allora, esistono, per la musica ne sono tantissime, per i libri forse il caso più interessante nel mondo è un caso spagnolo che si chiama 24 Symbols, che stenta peraltro a decollare. Io sono convinto che sia un modello che si estenderà anche al libro. Personalmente noi abbiamo fatto un accordo con le biblioteche e spingeremo, saremmo molto felici che le biblioteche aprissero a questa possibilità ai loro utenti, cioè che le biblioteche consentissero con 10 euro al mese, 30 euro all'anno, a delle somme che devono essere definite, la possibilità di accedere alle librerie che le biblioteche, i libri digitali che le biblioteche mettono a disposizione della loro utenza. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, ovvero Chiara De Selvi, in bocca al lupo, visto che questa esperienza con i libri di Google è appena iniziata, a presto, e anche Marco Ferrario di Book Republic, a presto, buon lavoro. Grazie. Preparatevi per fare un applauso, però un attimo solo, prima presento i nostri tecnici di oggi, Fabio Cantadori nella regia di Milano, e invece nella regia esterna a Torino, al Salone del Libro, c'è Carmelo Lauricella, applauso per i nostri tecnici. C'è anche Pietro Lacorte che però è in una pausa, poi ci sono anche tutti gli altri, Michelino, Davide, insomma tutti gli altri che però non posso menzionare perché sennò la lista è troppo lunga. Bene, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, oggi parliamo di tecnologia applicata ai libri, e uno potrebbe pensare che cosa c'entra la tecnologia con i libri. Beh, sta succedendo, diciamo che sta arrivando uno tsunami per l'industria editoriale, perché tra ebook, ovvero libri digitali, e ebook reader, cioè terminali per leggere i libri, stanno cambiando molte cose. Presento gli ospiti della nostra seconda parte. Oltre a Cristina Mussinelli, che abbiamo già presentato nella prima parte, c'è anche Antonio Tombolini, che ha fondato parecchi anni fa Simplicissimus Book Farm. Ultima Books è anche la sua libreria digitale. Bentornata 2024. Grazie, bentrovati a tutti. E anche Raffaello Avanzini, che è un editore di Newton Compton. Benvenuto. Grazie, buonasera. Grazie per essere con noi. Dunque, Antonio, non è un po' troppo complicato questo mondo degli ebook? Perché se io non sono all'interno di una piattaforma come quella di Amazon, come quella di Apple, come quella forse di Google, come quella di Nokia, Microsoft, che stanno entrando nel mercato, mi sembra, però vorrei il tuo parere, che le cose siano un po' complicate rispetto a io entro in libreria, compro un libro, me ne esco e lo comincio a leggere. Ma non solo, diciamo che sono troppo complicate rispetto a, per rimanere al digitale, vado in un qualche store online, mi compro un file MP3 di musica e me lo sparo dovunque io mi trovi con qualsiasi dispositivo. È troppo chiaro che l'industria dell'editoria digitale dovrà arrivare al punto in cui anche l'industria musicale è arrivata, ma se non c'è ancora, forse qualche motivo c'è. Qualche motivo c'è in un, a mio avviso, non colpevole, ma mi viene quasi da dire incosciente ritardo accumulato soprattutto da parte di editori, ma io ci metto insieme sempre anche gli autori, perché c'è bisogno di una grande consapevolezza anche da parte degli autori su questi cambiamenti, altrimenti gli editori, spesso anche i più volenterosi, hanno le mani legate. Un ritardo di consapevolezza su questa evoluzione, l'illusione che convenisse frenare l'evoluzione al digitale con la speranza che si potesse così governare ancora un mercato del libro tendenzialmente stabile. il 2011 ancora di più, il 2012 sta mettendo chiaramente in discussione il dogma che prima c'era tra un po' tra gli editori, per cui il mercato del libro è stabile, il fatturato è sempre quello, addirittura è anticiclico, se va male la gente legge di più. Col cavolo, 2012 sento parlare di cose tipo meno 15, meno 20%. Ora io credo che questo determini una situazione talmente grave, talmente chiara, che almeno di fronte a questo dovrebbe diventare chiaro a tutti che non si tratta più di cincischiare tra digitale contro cartaceo e viceversa, ma si tratta di cominciare a costruire una possibile opportunità anche di mercato, anche dimensionalmente importante sul digitale, non più ostacolando ma favorendo un'evoluzione nel senso della semplicità di accesso a favore dell'utente. Allora, sulla semplicità, che è un concetto che i produttori di tecnologia sbandierano da anni ma che difficilmente sono riusciti a raggiungere, volevo un parere anche da un editore come Newton Compton, che è un editore non gigante ma importante in Italia, Raffaello Avanzini. E non gigante perché siamo indipendenti, ma lasciamo perdere quanto siete grandi, insomma, no. Siete importanti, sì. Ecco. È vero che questo mercato è un po' troppo complicato per il consumatore finale, quindi questo poi pone anche dei problemi di crescita. Stiamo parlando al consumatore finale, non facciamo un discorso tra noi addetti alla lavoro, non c'entro niente. Io non direi complicato, direi ancora in fase embrionale, perché stiamo parlando di un mercato che oggi in Italia non sfiora nemmeno l'1% del mercato totale e libro. Non è detto che questo mercato in Italia possa crescere, con la crescita di tecnologia però è rapportata all'Italia, che sappiamo che è sempre molto, molto bassa. E sentivo prima Tombolini che diceva il mercato meno 15, la lettura. In realtà in Italia c'è sempre stato il problema della lettura, non si è mai alzato lo zoccolo duro dei lettori in Italia. È vero che non c'è stato mai un decremento così alto, che non è il 15, ma dati Ripeto 10. Però la domanda, sì. Perché visto che a me sembra molto complicato ancora oggi su molte piattaforme comprare un libro digitale. Il problema non è complicato, il problema è che in realtà è molto facile comprare il libro digitale. Per chi è dentro al mondo digitale, per chi ha un device, quello che volevo dire è che il problema è che in Italia non ci sono device a sufficienza sono i terminali, i lettori di libri digitali, certo, tablet, eccetera. Per far sì che questo mercato cresca, se del tablet più importante che c'è in commercio ce ne sono circa 1.400.000 e di altri reader ce ne sono intorno a 300-400 mila, è difficile che... Non sono molto d'accordo, però diciamo quello che penso io conta poco. Volevo sentire dal pubblico se c'è qualcuno che vuole fare una considerazione sul fatto che sia facile o difficile acquistare e poi leggere un libro digitale, ad esempio prestarlo ad un amico. È facile prestarlo ad un amico? No, cioè attenzione poi, vogliamo dirci la verità, è facilissimo, ma da parte di un player di cui nessuno parla mai, la cosiddetta pirateria. Più rendiamo difficili i canali di fruizione legali, più alimentiamo quel canale facilissimo che si chiama la pirateria, contro cui tutti a parole ci scagliamo, ma sì, poi sì, creiamo invece i presupposti per alimentarla. Cristina, che cosa pensi? Cioè, per favorire la crescita di questo mercato e quindi per combattere anche la pirateria, cosa bisogna fare? Rendere più facile la diffusione, anche che dire, il prestito tra un mio lettore e quello di un mio amico, oppure calare molto i prezzi, oppure che cos'altro? Io credo che comunque alcune cose siano state in questo ultimo anno abbastanza cambiate, perché alcuni canali, come diceva anche prima Ferrario, tipo Media Library, dà la possibilità per esempio di prendere libri in prestito anche presso le biblioteche. Sicuramente la logica del DRM c'è, non è un problema italiano, è un problema, come dire, internazionale, è un dibattito in corso a livello internazionale. Molto dipende dalle scelte delle singole aziende o, come diceva prima anche Antonio, anche dai singoli autori o agenti letterari. In Italia ci sono tanti editori che comunque hanno scelto la logica del social DRM e quindi che offrono la possibilità all'utente di utilizzare il proprio libro su diversi dispositivi, su diversi device. Io credo che molto conti, come dicevo prima, anche la logica di servizio che offrono le librerie online, perché credo che quello sia un elemento comunque importante, che sia la libreria online che vende il dispositivo, che sia la libreria online che offre la community. Credo che questi siano elementi importanti. L'innovazione tecnologica è complessa. Non è un caso che Barnes & Noble in America sia riuscita a fare e a conquistare una quota di mercato rilevante proprio avendo nelle librerie fisiche dei punti di supporto delle persone con competenze tecnologiche meno evolute, che sono in grado di aiutare il lettore più tradizionale a usare comunque le tecnologie. E questo secondo me è un elemento molto importante, perché sicuramente le tecnologie hanno una fascia di prima acquirenti o primi utilizzatori che sono quelli più avanti e più impallinati, e poi si scende su una fascia di persone più tradizionali. Alessandro, sentiamo quel nostro ascoltatore che volevo sapere. Lei legge libri digitali? Ne ha acquistato uno qui adesso. Bravo. Lei ha acquistato a un lettore. Un lettore. Che cosa ha acquistato? Il Sony. Il Sony. Sì. E ha più o meno idea di come funziona? Cioè, saprebbe adesso andando a casa scaricarsi un libro digitale e leggerselo? Penso di riuscirci, sì. Però ecco, in generale, penso non l'ho che mai sia... fatto, però mi sembra abbastanza semplice. Il nostro numero verde 800240024 lo ha chiamato Francesco da Brescia. Allora da Brescia ci spostiamo qui a Torino, dove siamo al Salone del Libro. Francesco, buongiorno, benvenuto, che cosa ci dice? Buongiorno a lei, volevo chiedere una cortesia, molto semplicemente una domanda. È possibile scaricare spartiti musicali su iPad? Io mi trovo spesso a Parigi, ultimamente c'erano una signora, una direttrice orchestra che aveva bisogno di sapere una nota particolarmente, ma dico, guardi, io non sapevo cosa fare. È possibile scaricarli? Questa è la mia domanda. È una bella domanda, perché oltre ai libri, se uno effettivamente o fa il direttore d'orchestra oppure suona, potrebbe volere, non so, avete una risposta? Avanzini, Tombolini. La risposta è che esistono applicazioni dedicate nel mondo iPad non solo per scaricare spartiti ma anche per suonarli con iPad, ovviamente all'interno del recinto del sistema operativo iPad. Quello che non c'è ancora è un'offerta, come si trova in libreria, degli spartiti che si comprano, si mettono lì e possono essere usati e trasportati da un dispositivo all'altro. Sì, sì. Dunque, Sebastiano, che è qui tra il pubblico, che ha appena comprato un ebook reader, ti faccio una domanda flash. Secondo te i libri digitali che poi tu acquisterai per leggerli su questo reader costano troppo? Il prezzo è giusto? Questa è una domanda alla quale non saprei rispondere, perché non... Senti, tu sai che dovrai preoccuparti dell'Adobe DRM quando comprerai il libro digitale da uno store? No, non so bene cosa sia. Questi sono problemi che uno... Che poi fuori, purtroppo, sono quelli che poi limitano la funzione fondamentale, che diceva anche Avanzini, dei dispositivi che dovrebbero essere i veri moltiplicatori della lettura digitale. Quando poi gli utenti di un ebook reader scopriranno che per scaricare i libri di alcuni editori, non di quelli di Newton Compton, che molto saggiamente non utilizza i DRM, ma di altri editori protetti da DRM, scoprirà che gli verrà richiesta una username e password di un account Adobe di cui non sa normalmente di che cosa si tratti, scoprirà che per farlo non può farlo da quel device ma deve spostarsi al computer per andarselo ad aprire, e tutta una serie di altre macchinosità che sono le difficoltà con cui dobbiamo fare i conti oggi. Stiamo facendo passare la voglia dei libri digitali ad alcuni. Ma guarda, io con i libri digitali c'è campo, come si dice a Roma, ormai dal 2007, quindi figurati se sono io che voglio far passare la voglia. Però è così, la situazione è questa, ed è questa è soprattutto la cosa su cui si arenano tutte le discussioni che restano astratte, quando si dice non bisogna lasciare questo strapotere ad Amazon, Apple, Google, eccetera. Perché in realtà, se non vogliamo lasciare questo strapotere, allora bisogna creare un ecosistema aperto che possa competere sullo stesso livello di semplicità che loro oggettivamente offrono. Esatto, chiarissimo. Avanzini però non è molto d'accordo. No, sono d'accordo. Ah, sei d'accordo? Nel senso che anche Newton non usa il DRM, usa un social DRM. Dove allora, è facile. Spieghiamo solo un attimo che i DRM sono lucchetti che non ti permettono di fare certe cose, come l'esempio della musica calzante, cioè oggi con la musica puoi fare un po' tutto quello che vuoi, puoi passarla anche ad un amico. Ecco. social DRM è un watermark marchiato con il tuo nome, ma non ti devi loggare o fare cose complicate per prendere il libro. Noi chiaramente della pirateria abbiamo paura, come tutto il mondo editoriale. Come Newton Compton la combattiamo con i prezzi, dando dei prezzi molto molto vantaggiosi, essendo anche i nostri prezzi cartacei molto bassi. Noi per gli ebook non andiamo oltre i 4,90 euro, ma da sempre noi siamo stati pionieri degli ebook insieme a Tombolini, perché siamo stati una delle prime case editrici nel giugno-luglio 2010 a mettere i nostri libri a disposizione come digitali. Quindi investiamo e crediamo nell'ebook, ma crediamo che ci sia un mercato per allargare il numero di lettori oggi in Italia, quindi un mercato parallelo a quello cartaceo, e penso che sia questa la cosa importante. Prima diceva la signora che da Barnes & Noble hanno messo insieme ai libri anche i lettori, ed è questo quello che bisogna fare, cioè non bisogna dividere le due cose, libro cartaceo e libro digitale insieme. Mi è piaciuto il gioco di parole, hanno messo assieme i libri anche i lettori, che sono fondamentali, ma tu facevi riferimento ai lettori intesi come terminali per leggerci. Terminali, sì. A proposito di terminali, un parere così a caldo, tu che cosa pensi? Meglio leggere su tablet o meglio leggere su ebook reader? Io personalmente sono per il tablet. Perché? Perché il tablet ti dà tutto quanto, tu hai tutto l'entertainment in una sola macchina, quindi film, libri. Per leggere chiaramente il reader è più facile, ma più facile ti stanca meno. Ma il futuro secondo me è il tablet. Poi ricordiamo anche che secondo me Sebastiano, che tra il pubblico, ha fatto bene a comprare un ebook reader, perché lui in spiaggia riuscirà a leggere. Lui l'hai comprato per questo motivo? Anche per questo motivo, sì. Esatto. È perché non stanca la vista alla lunga. Tombolini, preferisci il tablet? Economico. È anche più economico, certo. Tombo, preferisci il tablet o l'ebook reader? Li uso tutti e due. La lettura del libro, così come lo intendiamo, una cosa fatta di molto testo, lungo, eccetera, che leggiamo anche negli interstizi delle cose che facciamo ogni giorno, quando sono in metropolitana, oppure quando viaggio in treno, quando la sera mi fermo un secondo, quando faccio la sala d'attesa dal medico, eccetera, l'ebook reader comunque manterrà una sua ragion d'essere. Vero è che se noi guardiamo allo scopo di allargare la fascia dei lettori, il discorso che Avanzini fa, che ha un grande senso, è molto più facile che questo lo faccia il tablet. L'ebook reader è uno strumento da forti lettori. Diciamo che l'ebook reader è lo strumento che viene usato da quelli che già sono forti lettori. Probabilmente il tablet può avere un grosso effetto nell'allargamento della platea di chi accede ai libri anche da questo tipo di strumento. Cristina Mussinelli, che cosa preferisce? Concordo abbastanza con quello che dice Antonio, e credo che anche sui tablet o su certi nuovi tipi di lettura sia proprio anche il prodotto editoriale che va a modificarsi. Quindi ci sono, nascono nuove forme di prodotto editoriale proprio pensate per un tipo di lettura completamente diversa. L'esempio classico è quello giapponese delle Keitai novel sugli telefonini, e credo che gli editori anche italiani stanno cominciando a fare delle sperimentazioni in questo senso, che sono molto interessanti. Senti, a proposito di prezzi, facci capire fino a che punto si potrebbero abbassare i prezzi, visto che molti consumatori dicono l'ebook digitale costa ancora troppo per convincermi di non comprare il libro di carta. Allora, se c'è spazio e margine per abbassarli, e soprattutto quali sono i vincoli? Allora, c'è un vincolo fondamentale, che è sul libro digitale esiste un IVA, che è l'IVA del 21%, mentre sul libro di carta c'è l'IVA 4%. Quindi in realtà, se si togliesse già l'IVA, i libri digitali costerebbero sicuramente molto meno. Due l'una, o si aumenta l'altra oppure si abbassa. Diciamo che è una discussione che è in atto e su cui anche a livello italiano, a livello politico, diciamo, si sta cercando di spingere, perché purtroppo non è una decisione che può essere fatta a livello nazionale. Primo ma dipende vincolo. Da una direttiva europea. Ma direi che questo è uno dei vincoli principali, perché il 20%, 18-19% sì, è tanto. Sì. Perché se uno va a vedere il prezzo libro carta col prezzo libro digitale, già adesso le differenze sono abbastanza elevate, si parla del 30%, se si togliesse anche l'IVA sicuramente si avrebbe un prezzo competitivo. Siamo in diretta dal Salone del Libro di Torino, il nostro numero verde 800240024, tra poco sentiamo uno dei nostri ascoltatori che ci ha chiamato. Volevo chiedere a Raffaello Avanzini di Newton Compton, a tuo parere quali sono le cose più nuove di questo mercato, quello che tu guardi con maggiore interesse, quello che secondo te sta anche per diventare più popolare, quello che sta per emergere con maggiore enfasi? Sicuramente l'opportunità di far rendere il libro fruibile in altri modi, quindi andare al di là della lettura, aggiungere contenuti extra al libro, cosa che la carta per ovvi motivi non può avere, quindi avere libri anche a volte multimediali che hanno contenuti extra e possono essere fruibili e più interessanti per il lettore. Poi, lo fate già? Lo fate già? Esiste già un'offerta di questo genere? Ci fai un esempio? Noi lo facciamo, l'abbiamo fatto per esempio con un libro che è una guida che si chiama Il Mangiarozzo, che è la guida alle trattorie e osterie d'Italia, che abbiamo fatto un EPUB e un'applicazione interattiva e dove la gente può trovare il ristorante, il numero di telefono, la foto, può anche interfacciato con Facebook dalle stelle, come si è trovato o meno, quindi è la tecnologia avanzata applicata a un certo tipo di prodotto che per ovvi motivi, come dicevo prima, la carta non può dare. Senti, ci fai capire, voi siete, dicevamo, un editore indipendente. Quanto è cresciuto per voi il mercato negli ultimi anni parlando di libri digitali? Beh, è cresciuto tanto. Teniamo presente che oggi la Newton ha un numero di pezzi in un mercato molto piccolo, forse è il secondo o terzo editore in Italia, quindi è aumentato tanto. Ripeto, a doppia cifra, del 200%. E ogni mese aumenta, perché aumentano le vendite dei device, aumentano gli store e aumenta sempre la curiosità e la vendita degli ebook. Certo, come dicevo prima, l'opportunità che dà l'ebook, e molti non lo capiscono, è che con l'ebook veramente in Italia si potrebbe sfondare una porta che è sempre stata chiusa del numero dei lettori forti, che potrebbe aumentare la forbice. E tu dici ci si può rivolgere a un pubblico diverso dal classico lettore del libro? Diverso, come diceva prima Tombolini. Sì, che è un po' quello che accade, il dibattito che accade anche per gli editori di giornali, che temono che internet cannibalizzi la carta. Non è così. In bocca al lupo, e non siete una startup, però insomma, in bocca al lupo fa sempre bene. Credo. Buon lavoro, a presto. Grazie per essere stato con noi. Sentiamo Mauro che ci chiama da Alessandria. Buongiorno Mauro. Buongiorno a voi, buongiorno a Topagliarini. Benvenuto a Torino, al Salone del Libro, al Festival del Libro, chiamiamolo così. Sì, Salone, sono venuto, ho fatto anche acquisti, perché io sono un utilizzatore di iPad, leggo i libri su iPad, ma non mi trovo granché bene. Allora giovedì ho comprato un Kindle. La domanda è, ma è possibile i libri che ho scaricato sull'iPad, quindi attraverso tante piattaforme, trasportarli sul Kindle e leggerli lì? Allora, uno potrebbe dire la domanda andava fatta prima di comprarlo, però. Allora, rimanga in linea Mauro Tombolini, che sa tutto sugli ebook. Beh, bellissimo, è paradigmatico, perché adesso farò una pessima figura, nel senso che bisognerebbe sapere se i libri che il nostro ascoltatore ha su iPad li ha comprati dalla libreria iPad che si chiama iBooks, oppure attraverso iPad in qualche altra libreria. E a seconda di questi due casi la risposta cambia. Ce lo facciamo dire. Proviamo, Mauro. Vediamo Mauro. Dove andiamo a finire. Dove li ha comprati questi due ebook? Li ho comprati da tutte le parti, nel senso sia con iBook, sia con leggibili con Ball, sia tramite direttamente Rizzoli. Ok. Quanto dura la risposta? No, adesso la faccio breve e prendo una scorciatoia. I libri che vengono acquistati su iBooks e pagati dentro iBooks su iPad o su iPhone possono essere letti solo all'interno del sistema Apple e non possono essere trasportati da nessun'altra parte. I libri che invece vengono acquistati su iPad o su iPhone attraverso il browser in una libreria online, bisogna a questo punto vedere se hanno i DRM oppure no, perché se non hanno i DRM allora posso anche spedirli sul mio Kindle trasformandoli nel formato Mobi, se invece hanno i DRM questa cosa non la posso fare. Divertente, insomma, no? Insomma Mauro, non so quanto tu possa aver compreso, anche se Tombolini è stato molto chiaro, ti auguriamo in bocca al lupo. Sì, e bisognerebbe però che le case editrici si mettessero un po' d'accordo, come avvenne per i DVD e tutto il resto, per avere un formato che sia facilmente trasportabile da una parte all'altra. Esatto. Esatto. Cristina Mussinelli vuole aggiungere qualche cosa. Grazie Mauro per aver chiamato, buon ascolto. Sì, vorrei aggiungere che in questo caso non è il formato degli editori. Subito si è sentita attaccata come editore. No, nel senso che sul DRM è un tema legato agli editori. Sul formato del file, nel caso specifico dei formati di Amazon ha scelto di fare un formato suo proprietario, quindi è diverso. Allora, quindi si inserisce in questo tema Massimo, che ci chiama da Milano, che è un giornalista del Corriere della Sera. A questo punto vogliamo sapere anche il cognome. Massimo. Massimo Triulzi, ciao Enrico. Ciao Massimo, grazie per aver chiamato. Stai? Bene, noi vogliamo capire, perché tu, visto che leggo nella nota che mi fa il centralino, che tu vuoi parlare degli standard, ti inserisci. Allora, io sono un accanito lettore digitale e il più grosso problema è questo, che l'attuale distribuzione del libro digitale ti obbliga, come anticipavi tu, a diventare un pirata, ma a diventare un pirata anche quando tu acquisti il file, nel senso che se tu acquisti un file da una prestigiosa libreria online te lo trovi in formato EPUB protetto da DRM, e adesso dici come faccio a metterlo sul mio tablet e o sul mio Kindle, che a sua volta legge solo formato Mobi. Non hai altro modo che, dopo aver comunque pagato i tuoi 7 euro di libro in più, metterci mezz'ora per sproteggertelo, piratartelo e potertelo leggere, che è una cosa assurda. È come avere un file, un'immagine che puoi aprire solo su Macintosh e non puoi aprire su PC o viceversa, quindi siamo proprio al Pleistocene. Massimo, grazie per aver chiamato, sei stato molto chiaro, mi sembra che nulla dobbiamo aggiungere. Insomma, niente, assolutamente niente da aggiungere. Però devo dire che in questo contesto Sebastiano, il nostro ascoltatore che è qui davanti, ha fatto sei ancora più convinto della tua scelta, perché tu hai comprato un Sony che è un po' fuori dai giochi, cioè un po'. Cioè, non indipendente da tutte le cose che abbiamo detto, no, però c'è sicuramente sempre di mezzo il DRM, sempre di mezzo, signori. La questione è Adobe DRM, tra l'altro, allora, è un monopolio. Diciamo che a Sebastiano prendiamo l'indirizzo di posta elettronica, fra un mese o due sentiremo la sua esperienza. Alessandro è qui con noi, fa parte della redazione di Radio 24 e sta girando con un microfono. Vai magari in mezzo a sentire se qualche che è un utilizzatore di ebook reader che legge su ebook. Nessuno? Cioè lui è l'1% del mercato. Alessandro, cerca qualche lettore di ebook. Vi presento Pier Domenico Baccalario, PD Baccalario su Twitter, giusto? Giusto. Noi ti abbiamo chiamato perché non vogliamo parlare per tutta l'ora di problemi legati ai diritti, ai lucchetti, ai DRM, tutti i vincoli che gli editori, i distributori mettono su questo mondo del libro, perché tu ti stai occupando di libri digitali e ragazzi. Sì, e lo faccio in modo molto pratico. Proprio qui al Salone del Libro abbiamo attrezzato una sala che si chiama Digilab, in cui abbiamo messo 15 tablet, tanto per non fare pubblicità, 15 iPad, e abbiamo scelto quelli, dopo aver guardato nelle statistiche di gradimento dei ragazzi quali erano appunto gli oggetti del desiderio, erano gli iPad, ne abbiamo messi 15, abbiamo caricato sugli iPad una ventina di applicazioni scelte tra quelle che erano disponibili sugli store, e a turno stiamo facendo leggere, giocare e interagire direttamente ai ragazzi con questo strumento. Soprattutto stiamo raccogliendo, credo per la prima volta, tutta una serie di dati, e i dati sono quanto hanno trovato facile e difficile quello che stiamo sottoponendo loro, e che cosa hanno preferito tra le varie attività che abbiamo fatto, se hanno mai visto un iPad, se l'hanno mai usato prima di questo momento, se ne hanno una a casa, ne hanno mai visto transitare una scuola, no. Ecco, abbiamo delle informazioni sulla loro usabilità. Senti, ti faccio una domanda sulla quale sicuramente i ragazzi sono disinteressati, però è una cosa importante che rientra poi nel discorso che stiamo facendo. Il fatto che voi forniate e utilizziate degli iPad che sono di un'azienda che blocca tutto e obbliga a rimanere all'interno di quella piattaforma, vi ha fatto nascere qualche problema? Vi siete fatti delle domande? Certo che ci siamo fatti le domande, però a quel punto ci mancava la praticità del risultato, e il risultato lo si ottiene cercando di capire che cos'è che vogliono i ragazzi, che cosa gli editori hanno dato ai ragazzi, e quindi dopo tante parole sui DRM e su tutto quello che è giusto, bisogna anche capire che cosa fisicamente è stato realizzato. Soprattutto bisogna capire se quello che è stato realizzato rientra nelle aspettative dei ragazzi, che poi, parliamoci chiaro, sono loro il futuro dell'editoria, sono loro che decideranno se e quanto sopravviveranno i vari standard, i vari media, il libro tradizionale quanto il digitale, e quindi chiediamolo a loro mettendoli nella possibilità di utilizzare uno strumento che, non ricordiamo, insomma, ha un certo prezzo, quindi non tutti l'hanno usato prima di ora. Anzi, costa un sacco di soldi. Esatto, infatti è vero che quello che dicevamo prima, che se uno è un grande lettore, sicuramente se si compra un ebook reader spende poco e può leggere tranquillamente, certo. Soprattutto può leggere in spiaggia al sole, perché leggere su un tablet. Che ho capito che ti ha colpito, sì, quindi sì, devi aver fatto un'esperienza pratica. Sì. Senti, a proposito di quello che si capisce, parlando e lavorando con i ragazzi, tu che sei anche un autore di libri per bambini e ragazzi, che cosa hai capito? Che cosa farà il successo degli editori, degli autori per il mondo digitale? Come sempre una mescolanza inaspettata di generi, con un'idea forte alla base, e quindi la lettura diventi in qualche modo interazione e gioco. Tipo in un modo... faccio un esempio, se esiste già qualche cosa. Ma che va in questa il recente premio Oscar dato a un libro digitale che è, tra l'altro, assurdo, ha vinto un libro che si chiama The Fantastic Adventure of Morris Lessmore, ecco, ha vinto l'Oscar come cortometraggio, perché non c'era la categoria merceologica per dargli un altro premio, ed è un libro che è all'aspetto del libro, ma al suo interno dei filmati minimamente interagibili, e quindi ogni pagina è un piccolo gioco, è una piccola scoperta tenuta insieme da una struttura molto forte, che è quella di una narrazione, di un racconto. È uno spettacolo da vedere, ai ragazzi piace moltissimo, si aspettano poi che ce ne siano altri 50 di prodotti come quello sul mercato, e sorpresa sorpresa non ci sono. Esatto, quindi questo può essere un consiglio per autori ed editori. Certo. Alessandro, ha portato il microfono, buongiorno. Buongiorno, Alberto Palazzi. Lei è un utilizzatore di ebook? Non sono solo un utilizzatore di ebook, sono un editore nativo digitale. Il Glifo Ebooks è la prima editore digitale italiano dedicato alla saggistica di cultura, non al talent scouting narrativo. Senta, ma lei non è un po' spaventato dell'arrivo di questi grandi player internazionali che potrebbero cannibalizzare tutto il mercato, far scomparire tanti editori? Per quanto riguarda noi, assolutamente no, perché il nostro obiettivo è dare voce a saggistica di nicchia e di qualità che rappresenti la cultura italiana. Il fatto che esista la distribuzione del genere Amazon al limite ci aiuta. Sì, senta, ci parli però anche della sua esperienza come lettore, dopo averci raccontato dell'esperienza come editore. L'esperienza fisiologica? Sì, sì. Allora, io considero assolutamente impossibile leggere su qualsiasi video illuminato, PC, portabile, tablet. La ragione fisiologica non la conosco, e non so se sia un fatto assolutamente universale o riguarda una percentuale degli umani. Però a me leggere su un video illuminato implica la caduta dell'attenzione dopo una pagina o due, proprio per via dell'affaticamento retinale. Invece l'ebook reader basato sull'electronic paper e electronic ink è leggibile quanto il libro cartaceo, senza assolutamente nessuna penalizzazione. Chi è d'accordo? 5, 6, 7, una decina, abbiamo un 15% del mercato. Chi non è d'accordo? 0%. Quindi non capisco gli altri che cosa vogliano dire, però tu non sei d'accordo? Tu preferisci il tablet? Dopo ti chiedo anche a te. Non mi piace tantissimo per adesso, anche se so che la adori, perché sento spesso che lo dici per radio, lo schermo del reader, però probabilmente è un'abitudine mia. Poi sono abituato a vedere PC tutto il giorno, iPhone e tablet alla sera, e probabilmente è un fatto di abitudine. e mi piace molto di più, come si diceva prima, il fatto di avere poi nello stesso dispositivo tutto il resto. Questo. Infatti che c'è chi ci chiede, anche il mio amico Francesco, che è un grande lettore di ebook, mi dice: ma perché non fanno, Antonio, perché non fanno un lettore che abbia lo schermo doppio? Qualcuno ci ha provato? Ci hanno provato e sono miseramente falliti, precipitati, giustamente io aggiungerei, nel senso che il metodo migliore per raddoppiare il prezzo di un device, tanto per andare al pratico. Sì. Io rispetto naturalmente le esperienze di ciascuno, e ciascuno sceglie la cosa bella, che ciascuno può scegliere le vie migliori alla lettura. Mi permetto di dire che il fatto che un oggetto faccia tante cose, quindi il tablet, dal punto di vista della lettura, insisto, di un libro, che significa un numero consistente di pagine, con una modalità di lettura che è diversa da quella che ho quando guardo un sito, guardo la mail, eccetera, perché è una lettura immersiva, tendenzialmente isolata, può essere non un vantaggio ma uno svantaggio, perché poi mi arriva la notifica col badge che è arrivata la nuova mail, Twitter, Enrico Pagliarini che ha twittato, eccetera eccetera, e francamente personalmente io invece trovo queste cose di disturbo. Quando leggo un libro, prendo il libro di carta, che ha una grandissima forza, mi apre un mondo davanti dentro cui mi isolo per un po', e io credo che ci sia bisogno un po' di questo anche nel digitale. Pier Domenico Baccalario, tu hai una bella esperienza da raccontare su questa differenza tra tablet e e-book reader. Sì, è una differenza che è stata studiata dal professor Paolo Ferri dell'Università Bicocca di Milano, che analizzando dal punto di vista neuronale il cervello dei nativi digitali, quindi bambini che oggi hanno 4, 5, 6, 7 anni, ha notato delle differenze su come appunto il cervello reagisce, si comporta e come assimila le nuove informazioni. Quindi una previsione che potrebbe essere fatta è quella che i nativi digitali ragioneranno e avranno modo di utilizzare tecnologie in modo diverso da come lo facciamo noi, e quindi anche molti discorsi su capacità di concentrazione e di apprendimento delle informazioni potrebbero rapidamente essere cambiati proprio da dentro, dal cervello. Sì. Cristina Mussinelli, sui bambini tu volevi raccontarci un'esperienza che hai avuto, perché hai fatto la giurata. La giurata del premio Digital Award e la Fiera di Bologna, che è stata un'esperienza decisamente interessante, intanto perché si era partiti con l'idea che sarebbe arrivati una cinquantina di applicazioni e alla fine ne sono arrivate 250, quindi questo dà l'idea anche della vitalità della parte editoriale e progettuale. E la cosa interessante è che dopo averne viste 250, a livello, la giuria è una giuria internazionale, le scelte sono cadute su proprio tipologie di prodotti molto diverse. Uno è un altro prodotto creato dalla stessa società di cui diceva prima Pier Domenico, che ovviamente ha fatto anche degli investimenti economici elevati nel progetto, quindi è molto bello, molto ricco, ma è anche molto costoso da realizzare. Mentre in realtà il primo e il secondo, il primo soprattutto, che probabilmente è anche visibile qui in fiera da qualche parte, è un prodotto creato da una startup francese che ha innovato tantissimo proprio nel meccanismo di funzionamento dell'applicazione, creando un prodotto che ha una poetica editoriale, una leggerezza di grafica eccetera impressionante, offrendo qualcosa che su carta è impossibile da fare. E io l'ho testato perché ho miei fratelli dei bambini, ho un bambino di 2 anni, uno di 4, uno di 11, ed è stato un prodotto che ha piaciuto a tutti e tre, e che è stato anche un prodotto che è stato utilizzato da loro per leggere insieme, giocare insieme sul contenuto, cosa che sul libro di carta è difficile, perché il libro di carta è tendenzialmente un oggetto che uno usa da solo. Lì si è proprio scatenato, con 3 età diverse, 3 mentalità completamente diverse, un meccanismo anche di socializzazione del prodotto editoriale curiosa, quantomeno. Pier Domenico. È venuta al Salone, ha presentato per la prima volta nella sua esperienza con i bambini davanti questo prodotto, che si chiama Nei miei sogni, e per ora solo in lingua francese, anche perché ha delle filastrocche difficili da tradurre, ma il risultato è stato sorprendente, come dicevi giustamente. Quali paesi, allora abbiamo citato gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, dove il mercato degli ebook digitali è molto importante, ci sono altri paesi che tu stai vedendo Corea con un interesse? La Corea sta facendo cose incredibili. Non quella del nord, quella del sud. sta facendo delle cose incredibili, ma soprattutto ha un mercato enorme di utenti pronti e che si aspettano di essere altamente interattivi e banalmente girando per le strade della capitale ci sono dei pannelli touch in cui ci si può scattare una fotografia e mandarla come email a chiunque, quindi hanno veramente intenzione di usare le mani per riscoprire un po' di cultura, di divertimento e di lettura. E questo può essere un vantaggio anche per gli editori italiani, soprattutto per bambini, perché in quel caso la lingua è una componente minore forse. Tutti i mercati sono opportunità se vengono visti in modo costruttivo e senza aver paura del futuro che avanza, perché tanto avanza comunque. Sì. Quindi sono solo opportunità da prendere e cercare di utilizzare, di cavalcare nel modo più creativo possibile. L'Italia è maestra di creazione e creatività da millenni, non vedo perché adesso dobbiamo improvvisamente preoccuparci del digitale. Prima di dare la parola per gli ultimi minuti a Cristina Mussinelli, volevo chiederti, tu fatto 100 quello che fai e produci, quanto produci per l'editoria digitale? Ho passato l'ultimo anno a informarmi, perché non ci si inventa un lavoro, soprattutto quando appunto è così nuovo, e quindi posso dirti che adesso faccio il 10% di digitale, ma voglio fare nei prossimi 2 anni un 70-80% della mia produzione sul digitale. Per prepararti per il futuro. Ma il futuro da qualche parte arriva. Sì, sì. Cristina? Altro elemento che mi sembra interessante rispetto al mercato potenziale, che la cosa che ci ha stupito facendo la giuria di tutte queste applicazioni era la scarsa multilinguismo che queste applicazioni avevano, cioè erano pochissime le applicazioni che erano già pensate per un mercato internazionale, erano tendenzialmente tutte della propria lingua di partenza, tranne quelle spagnole, dove ovviamente erano spesso spagnole e inglesi, e questo secondo me è un elemento fondamentale invece da pensare, perché può offrire, visto che alcuni dei player sono player che operano sul mercato internazionale, progettare fin da subito prodotti multilingua e multipaese è un elemento prospettico di una nuova casa editrice nell'ambito digitale. Bene, concludiamo questa puntata, io ringrazio le persone che ci hanno seguito qui, fatevi un applauso, facciamoci un applauso. Grazie a Carmelo Lauricella e Fabio Cantadori, i nostri tecnici, anche a Michele Previato e Davide Cioccia. Grazie anche ad Alessandro Longoni e Gloria Guerrera che ci hanno fatto assistenza preziosa. Gloria è un'ora e mezza che ha il telefono, quindi più preziosa di così. Grazie, buon lavoro ragazzi. Grazie anche a Cristina Mussinelli dell'AIE, buon lavoro, a presto. Grazie. E grazie anche a Pier Domenico Baccalario, a presto, buon lavoro. Grazie. Pier Antonio, negli ultimi 20 secondi. Pier Antonio adesso è un Pier onorario che Antonio, se tu mi assegni, sì. Accetto volentieri. Ma... Penso che ci conosciamo da tanti anni, mi è scappato. No, tu che sei anche un editore di ebook, hai fatto una cosa che ci riguarda come radio, allora ricordiamola. Sì, mi sembra bello ricordare questa cosa che parla di Radio 24 e parla di narrativa. Su Radio 24 c'è la trasmissione ben nota, voi siete qui, di Matteo Caccia e Tiziano Bonini. Simplicissimus ha realizzato l'ebook Voi siete qui, è gratuito, andatevelo a scaricare, ultimabooks.it/voi siete qui. Poi lo mettiamo anche su sulla home page di Radio 24. Bene, Antonio Tombolini, grazie, a presto. Grazie Pier Enrico Pagliarini. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana oppure tra poco via podcast. Grazie a tutti, buon ascolto con Radio 24. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.